Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: avremo anche un piccolo approfondimento sull'analisi della situazione all'Ilva. Ci occuperemo di acciaio più volte nelle prossime settimane, perché sta per iniziare la settimana prossima un importantissimo appuntamento annuale per il mondo dell'acciaio. La notizia di oggi riguarda l'Ilva, o meglio le somme, 1 miliardo e 200 milioni sequestrati e Riva, che saranno destinate alla sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ilva. Lo ha previsto il decreto di trasferimento delle somme disposto dal giudice di Milano, e sempre ieri la Corte dei Conti ha accordato la garanzia dello Stato al prestito di 400 milioni per l'Ilva, e sarà l'occasione anche per rifare il punto su quello che è il primo stabilimento siderurgico italiano, ed era anche il primo stabilimento di carattere europeo prima che tutto si bloccasse. Parleremo anche degli esuberi e della situazione del mondo dei dirigenti, nel senso che spesso ci occupiamo, ieri commentavamo i dati dell'occupazione, o meglio dei nuovi contratti dell'INPS, spesso ci occupiamo della parte più bassa, diciamo, del mercato del lavoro, e quindi giovani, primi impieghi e quant'altro, cassa integrazione. C'è tutto il tema di chi è stato espulso dal mercato del lavoro e aveva un ruolo dirigenziale. Ora, uno quando pensa al dirigente pensa sempre al top manager che guadagna cifre stellari. In realtà non è così. Chiaro che gli stipendi dei dirigenti sono stipendi buoni, delle volte più che buoni, ma faccio notare che da quando è scoppiata la crisi il numero delle persone inquadrate in Italia come dirigenti è passato da 460.000 a 400.000, cioè 60.000 in meno nell'arco di 6 anni. Sostanzialmente siamo a 10.000 come saldo negativo, 10.000 posti persi nel mondo dirigenziale all'anno, e non è poca cosa. Ancora, per quello che riguarda la Grecia, vi sono poche notizie, più che altro di aggiornamento. Parleremo del rapporto tra banche e imprese. Perché? Perché ieri l'abbiamo data come notizia in breve, ma insomma si è occupato del rapporto banche e imprese sia il presidente della Consob nella sua relazione annuale, quella che poi ha avuto come notizia più importante, come commentavamo ieri, anche il rischio bolla sui mercati, il rapporto tra prezzi, utili attesi dei titoli azionari. Come conseguenza, Vegas non l'ha mai detto in maniera come critica diretta a Draghi, ci mancherebbe, però come conseguenza anche dell'eccesso di liquidità, questo l'ha detto esplicitamente Vegas, e l'eccesso di liquidità è dovuto anche alla misura che ha preso Mario Draghi, il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato da parte delle banche centrali dei paesi dell'euro e da parte della Banca Centrale Europea al ritmo di 60 miliardi al mese. La sentenza delle pensioni, abbiamo degli aggiornamenti, non c'è molto da dire. Se volete, la cosa più importante è la missione di Renzi, che ha detto, insomma, sì, in effetti abbiamo appreso la sentenza dalle agenzie di stampa, c'erano delle misure per il tesoretto, me le sono dovute rimangiare e abbiamo un po' masticato amaro, ma siamo vincolati. È la prima volta a memoria che il Presidente del Consiglio esprime un giudizio così esplicito sulla sentenza della Corte Costituzionale, che ha messo in grossa difficoltà il governo e comunque la tenuta della manovra finanziaria. Non voglio tornare sul tema, se ne sta discutendo in ogni luogo possibile, ne abbiamo parlato ampiamente. La Corte Costituzionale stabilisce che la pensione è uno stipendio differito nel tempo, e da lì la necessità di riadeguare all'indice di inflazione. Il ragionamento poi è: beh, le pensioni sopra un certo livello, beh, attenzione, i diritti acquisiti possono essere messi in discussione. Sì, tutto questo, diciamo, la politica lo fa, ma è una nota polemica voluta, mentre neanche pensa lontanamente a rimettere in discussione i vitalizi, e anche i vitalizi per i condannati non prevedono molti reati e quelli sotto i 2 anni, per cui insomma poi la credibilità della politica si costruisce anche se sei in grado di rimettere in discussione quello che chiami un diritto acquisito ma che ti sei autodato, e cioè i vitalizi. Comunque andiamo con ordine: la borsa meno 0,80%, Milano meno 0,90%, Parigi meno 1,44%, Francoforte meno 1,30%, Londra meno 0,20%, invece l'America sul Dow Jones, euro a quota 1,12%. Nei confronti del dollaro molto male oggi Autogrill, perde il 6,33%, e ne parleremo. E poi il Monte dei Paschi, ieri premiata dal Conti, il ritorno all'utile, poche decine di milioni, ma è l'utile, oggi pesantemente venduta, a breve vi sarà l'aumento di capitale, scattano anche le prese di beneficio, il titolo perde il 4,80%, male anche Unicredit meno 3,20%, e poi sul fronte non bancario Moncler meno 2,80% come CNH Industrial, il 2,60% lo perde Azimuth come Buzzi Unicem, il 2,5% è il calo della Popolare Emilia Romagna e di A2A, il 2,20% di Finmeccanica, l'1,90% perde Luxottica, l'1,80% Fiat Chrysler. Chi guadagna? Telecom Italia più 3,65%. Dopo la notizia, qui non c'entra nulla la vicenda Enel Telecom, ne abbiamo parlato ieri. Sostanzialmente a tutti è sembrata un avvertimento da parte del governo, che essendo l'azionista di riferimento di Enel dice: se Telecom non ci vuole stare con la banda larga, col progetto di digitalizzazione del paese, utilizzeremo Enel. È sembrata più una mossa di carattere tattico e di avvertimento politico che non reale di piano industriale. Comunque Telecom sale dopo la notizia che Verizon ha comprato All American Online per 4,4 miliardi. ST Microelectronics guadagna il 3,35%. Nel corso dell'appuntamento con gli investitori, il numero uno Bozzotti ha detto che nella seconda parte dell'anno i ricavi saliranno, i margini miglioreranno, e anche di questo parleremo. Poi la Pop Milano più 1,90%. Su Unicredit va detto che oggi c'è stato il dato sul primo trimestre, dato in linea con le attese degli analisti, quindi probabilmente il calo di Unicredit oggi anche in questo caso da attribuirsi alle prese di beneficio. Perché dico in linea? Perché l'utile netto di Unicredit nei primi 3 mesi è stato di 512 milioni di euro, meno 28% rispetto all'anno prima, più 200% rispetto al quarto trimestre dell'anno. Gli analisti si aspettavano un utile di 511, quindi siamo proprio lì. La Popolare di Milano invece sale perché i conti li darà a borsa chiusa, quindi immaginiamo che ci sia ancora un po' di speculazione sui conti. Più 1,90%, Tenaris più 1,30% come Prismian, Jux più 1,1%, Campari più 0,60%. L'ultima cifra è quella per i vostri sms: 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dicevo che parleremo anche del rapporto tra banche e imprese, non solo per le parole di Vegas di ieri sull'eccesso di bolla, anche perché Vegas ha detto che ci sono troppi vincoli alle banche di carattere europeo che frenano l'economia. In realtà sempre ieri è uscito il dato sull'andamento dei prestiti delle banche, e è la Banca d'Italia che lo diffonde, e ha detto sostanzialmente: rallenta il calo dei prestiti. C'è quindi continua ad esserci un calo nei prestiti, in particolar modo sulle imprese, meno 2,2% a marzo, mentre sulle impieghi delle famiglie, quindi mutui, sostanzialmente meno 0,3% rispetto a un anno prima sempre. Sta rallentando, devo dire che l'effetto di Draghi si fa sentire soprattutto sui prezzi alle famiglie, sulle imprese ancora il calo è significativo, anche se rallenta. Il tasso di crescita delle sofferenze bancarie rallenta anch'esso, ma è pari al 14,9% come crescita delle sofferenze bancarie, e parleremo tra poco, cercheremo di dare dei consigli sugli errori che vengono commessi in questo caso dagli imprenditori piccoli, soprattutto perché le grandi imprese hanno strutture interne che permettono di dialogare col mondo bancario. ma i piccoli imprenditori, proprio perché hanno strutture più piccole, più snelle, non hanno delle volte le figure che hanno principalmente il compito di dialogare con il mondo bancario, e quindi va lo stesso imprenditore nel 90% dei casi a trattare con il direttore di filiale o con il dirigente bancario che si occupa dei fidi e dei crediti. Ebbene, noi spesso raccontiamo gli errori che fanno i direttori di filiale e sostanzialmente i responsabili dei fidi e dei crediti. Questa volta vorremmo raccontare gli errori che fanno anche gli piccoli imprenditori. Delle volte sono errori di ingenuità, altre volte è proprio il non prepararsi a sufficienza a questo appuntamento o non curare a sufficienza un appuntamento che poi è fondamentale, perché diciamocela tutta, non possiamo continuare a chiedere che le banche e quindi direttori di filiali, responsabili, crediti escano dalla semplice applicazione di Basilea 2, dei ratio patrimoniali, dei rating, perché quello lo può fare anche un computer. Allora cosa serve il rapporto umano? Bene, il rapporto umano serve perché noi stessi chiediamo un po' più di soggettività nella scelta. E quindi l'esempio più classico è il vecchio direttore di filiale di una volta, di tanti anni fa, che conosceva la storia, la vita, delle volte anche quella privata, dell'imprenditore, quindi sapeva esattamente a chi prestava i soldi. Ecco, se vogliamo che ci sia più soggettività, bisogna anche capire che nel rapporto tra banca e imprenditore le variabili, chiamiamole così, soggettive, non solo il ratio, cioè come ti presenti, le domande che poni, le risposte che dai, sono importanti, proprio perché si vuole uscire dalla sola logica dei numeri, dei ratio, di quello che potrebbe fare qualunque computer. A questo punto basterebbe riempire, diciamo, il sito o un qualunque sito per sapere se uno ha diritto a merito di credito oppure no. Vi arriveremo tra un attimo, ancora qualche notizia in breve per quello che riguarda l'economia internazionale. Dicevamo della Grecia, la Banca Centrale Europea ha aumentato la liquidità di emergenza portandola a 80 miliardi di euro. È la liquidità di emergenza che la BCE dà e ha come fondo per le banche greche. Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere che il pagamento, che la scadenza che la Grecia aveva oggi con il fondo, è stato onorato. La Grecia doveva al Fondo Monetario 750 milioni di euro. Qui però c'è un piccolo giallo: non si capisce se Atene, per pagare il Fondo Monetario Internazionale, abbia usato o meno le sue riserve presso il Fondo Monetario Internazionale, che è un po' come se per pagare un debito a una banca io usassi un prestito che tengo dentro questa banca, usassi un deposito che ho dentro questa banca. Tutti gli stati hanno delle riserve dentro il Fondo Monetario Internazionale. No, se fosse così sarebbe veramente il gioco delle tre carte, perché tu usi le riserve che hai il Fondo Monetario per pagare una scadenza di prestito col Fondo Monetario per poi rimettere questi soldi fra un mese come riserva. Siamo in una situazione un po' surreale, ma non ha voluto rilasciare commenti il Fondo Monetario né chiarire se la Grecia abbia usato o meno le sue riserve nel Fondo Monetario. E sempre sul Fondo Monetario, varie agenzie internazionali ipotizzano che il Fondo Monetario Internazionale non abbia più voglia di partecipare a un terzo salvataggio della Grecia, e ha manifestato molte resistenze a mettere mano a nuovi aiuti stimati in 50 miliardi di euro come conseguenza della scarsa volontà di Atene di attuare i correttivi richiesti. Però Atene fa sapere che è pronta a intraprendere iniziative per raggiungere un accordo. Nel frattempo ha rastrellato liquidità per 600 milioni di euro agli enti pubblici. È il decreto di cui già parlammo, varato ad aprile dal Premier Tsipras, che ha imposto agli enti statali e locali di trasferire le proprie riserve di liquidità alla Banca Centrale della Grecia. Sono misure chiaramente di emergenza e chiaramente tampone, per cui non dico che anche in questo caso... Sì, qualcuno mi scrive che la Grecia sta applicando il metodo Ponzi. No, non è proprio così, però onestamente siamo veramente in una situazione in cui stai giocando un po' con le tre carte, con le partite di giro. Se non si trova un accordo, è chiaro che tutto questo ha un breve, brevissimo respiro. le pensioni italiane, o meglio i soldi che il governo dovrà dare dopo la sentenza della Corte Costituzionale che boccia la riforma Fornero. Poi l'ex ministro Fornero dice: ma io quella cosa non era prevista nella riforma, la inserì il governo. Allora boccia la misura del governo Monti che gli levava l'indicizzazione delle pensioni, vanno rimesse, vanno riadeguate, il costo è stimato fino a 12 miliardi di euro. L'Unione Europea si limita a dire che l'Italia può essere considerata eleggibile per la clausola delle riforme, ossia la flessibilità. Sapete che l'Europa dall'anno scorso ai paesi che mostrano di fare le riforme, di avere un deficit virtuoso, dà maggiore flessibilità. E infatti Bruxelles dice sì, l'Italia può partecipare al gruppo di questi paesi a cui viene accordata maggiore flessibilità, a condizione che attui le riforme concordate e che prenda le misure necessarie per compensare l'impatto della decisione della Consulta. Come dire, finché non vediamo che impatto avrà questa decisione sul deficit, perché se lo riporta al 3% noi usciamo dalla lista dei paesi che possono aderire, che possono usufruire della maggiore flessibilità. E infatti Bruxelles chiede che la soluzione sulle pensioni assicuri margini sul deficit. E alla luce delle nuove informazioni, dopo la sentenza sulle pensioni, il rapporto sul debito potrebbe essere più alto, più in là. Un nuovo rapporto sul debito pubblico potrebbe essere necessario. Insomma, per dirla tutta, e uscendo dal burocratese o dall'euro burocratese, la Bruxelles vuole capire quali sarà il deficit PIL e il debito PIL dopo che avremo trovato una soluzione sulle pensioni. Il commento del ministro dell'economia Piercarlo Padoan sulle raccomandazioni europee. Io penso che le raccomandazioni, che dobbiamo ovviamente vedere quando saranno decise dal Consiglio, dal Collegio, saranno molto in linea con quello che l'Italia sta già facendo. E poi gli è stato chiesto a Padoan chiaramente se vi sono novità in tema di misure. Cioè, abbiamo letto di tutto, addirittura che potrebbero essere fatte adeguate prima le pensioni più basse fino ai 1800, c'è chi ipotizza i 3000 euro. Su questo Padoan mantiene uno strettissimo riservo. Io ho comunicato sia ai commissari Dombrovskis, vicepresidente Dombrovskis, che al commissario Moscovici le intenzioni del governo, che sono quelle che sapete, e l'ho anche detto nella riunione dell'Eurogruppo, quindi l'ho condiviso con tutti i colleghi dell'Eurogruppo, e cioè che nel rispetto pieno dei principi che stanno dietro la sentenza della Corte Costituzionale, il governo sta lavorando, e sto per andare a Roma per partecipare alle riunioni su questo, a una soluzione che minimizzi l'impatto sulla finanza pubblica e che permetta di continuare a rispettare, come è già scritto nel DEF, tutti i parametri di finanza pubblica. Questo è il dato importante. Riguardo alle cifre che lei mi ha citato, con tutto il rispetto, sono tante delle cifre che ho letto in questi giorni e mi congratulo per l'enorme fantasia, perché non c'è nulla di tutto ciò in quello che stiamo considerando, quindi vi chiedo di aspettare le decisioni, così potremo discutere di numeri veri e non di numeri immaginari. Vabbè, molto tranchant il ministro, ha detto che abbiamo fatto grandi esercizi di fantasia. Vedremo, infatti è giusto anche aspettare i numeri finali e capire i 12 miliardi sono la cifra se il governo dovesse rimborsare tutti gli adeguamenti pensionistici per tutte le pensioni, anche quelle da 10.000, da 5.000 e non solo per il 2000, per i due anni in questione, cioè dal 2012 al 2014. Dicevo, Matteo Renzi, che quasi mai ha commentato in questi giorni il tema delle pensioni, ha detto: abbiamo preso della sentenza della Consulta solo il 30 dalle agenzie di stampa, e qui c'era già un commento, e poi ha anche aggiunto che io mi ero tenuto un tesoretto ma ci siamo dovuti rimangiare tutto e abbiamo masticato un po' amaro. Sentiamolo a Repubblica TV. Noi verificheremo che cosa dice la sentenza e discuteremo. La sentenza non dice che è obbligatorio restituire tutto. Perfetto. Può darsi che la sentenza offra dei margini o non offra dei margini, fino a che non la studiamo ogni parola sarebbe di fatto. Quando pensa che verrà affrontato? Spero il prima possibile. In ogni caso troveremo il modo per mantenerci dentro le regole europee. Quindi studieremo una soluzione che ci consenta di essere, come siamo stati fino ad oggi e come continueremo ad essere, credibili a livello europeo. E faccio notare che noi spesso abbiamo ricordato come la Consulta si esprima e si sia espressa anche per il ricorso dei manager italiani, di Federmanager e Manager Italia, se non ricordo male. Però questa mattina, a 24 mattino, Alessandro Milan ha avuto ospite il pensionato che per primo ha fatto valere davanti a un tribunale la questione di illegittimità costituzionale della riforma Fornero, ottenendo la bocciatura della norma. Si chiama Giuseppe Cardinale, ha anche detto che se servisse per creare occupazione rinuncerebbe ai suoi diritti, il suo era un punto di principio. Sentiamo questo passaggio. L'intenzione non era neanche quella di sconquassare i conti pubblici. La mia era più che altro un'ipotesi di vantaggio ad persona, ma nel senso di recuperare quello che mi era stato è posto. Chiaro, il blocco dell'indicizzazione. E non credevo assolutamente che diventasse una bomba atomica o qualcosa di più, insomma, questo di ma sa, il principio che vale per lei vale per tutti i pensionati. Vale, cioè. Certo. Non ci ho pensato, ecco, voglio dire. E invece il principio stabilito per lei vale per tutti. Sì, senta, sì. Le posso chiedere, tanto lei l'ha raccontato al Corriere, quanto ammonta la sua pensione attualmente? No, la mia pensione ammonta arrotondata in su a 1600 euro nette. Parliamo di nette perché io odio il lordo che dà idea di sporco il lordo. No, esatto, però sa che i calcoli li fanno sul lordo. Zanetti, sottosegretario, ieri ci ha ribadito secondo me sopra i 5.000 lordi, ma qualcuno dice sopra i 3.500 lordi, è giusto non ridare indietro l'indicizzazione bloccata, perché i sacrifici li dobbiamo fare un po' tutti. Lei come la pensa? I sacrifici dobbiamo farli un po' tutti, sono d'accordo, perché, per carità, quei euro che mi mancano non mi daranno la ricchezza, se servissero. Allora, io ho due figli part time, uno di 31 e l'altro di 32, che lavorano in un call center, uno è laureato, uno è diplomato. Ecco, se questi soldi servissero a creare posti di lavoro, ben volentieri rinuncerei ai miei, come si dice, diritti acquisiti. No need to love. It's a wonderful, wonderful life. No, sorridevo perché io non so se Padoan o Renzi abbiano ascoltato la prima parte di questa intervista, quando il pensionato Giuseppe Cardinale diceva: io non mi immaginavo né che la mia richiesta sarebbe stata accolta, né che avrei sconquassato i conti pubblici. No, perché ha fatto uno scherzetto, per modo di dire. Noi l'avevamo detto a Renzi modestamente, al di là del bellissimo fondo di Fabrizio Forché su Sole 24 Ore, armi di distrazione di massa sul tesoretto, che parlare di tesoretto portava sfiga, siamo stati facili profeti. Ma insomma, fa sorridere che lui non si sia reso conto, non immaginasse lo sconquasso conti pubblici. In realtà poi il problema è porre anche la Corte Costituzionale, dà una sentenza, dà un'interpretazione, vedremo quale sarà il punto di caduta su questo. Basta che non sia il punto di caduta dei conti pubblici. Quando arriveranno i dati, o meglio le misure del governo, torneremo a commentare la cosa, perché sennò facciamo una puntata sul nulla. E invece vorrei farvi ascoltare ancora un Renzi, che è quello sulla la banda ultralarga, dopo le polemiche di ieri. Anzi, facciamo una cosa, lo facciamo ascoltare durante i mercati finanziari, perché lì si capisce che l'ipotesi arrivata dal quotidiano Repubblica era un modo per parlare a nuora, così suocera intende, cioè, ma per far capire a Telecom che si vuole sfilare dalla partita della banda ultralarga, che il governo può scegliere Enel, cioè una classica operazione, diciamo, di pressione politica. Però lo faccio scordare dopo i mercati finanziari. Adesso c'è il metro, la pubblicità, e poi parliamo, e lo dico a tutti gli imprenditori piccoli, gli artigiani, i commercianti in ascolto, cerchiamo di dare il vademecum, le regole sugli errori da non fare quando si va a chiedere un prestito in banca. Poi, siccome so che a quest'ora iniziano ad esserci in ascolto anche molti direttori di filiale, se alcuni non le condividono, ce lo scrivano al 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Non sono consigli per i privati cittadini, sono consigli per chi ha un'impresa piccola, piccolissima, impresa artigiana, impresa manifatturiera, impresa dei servizi, e derivano da un'analisi compiuta su tutti e con tutti i direttori di filiali e responsabili crediti che hanno erogato il credito a un'impresa. Sostanzialmente c'è chi è andato a chiedere: bene, sulla base di quale motivazione gli avete erogato questo credito, al di là, voglio dire, del fatto che non fosse un pazzo? E forse ne scopriremo delle belle dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Minuti. Allora, arriviamo al vademecum, agli errori più comuni dei piccoli imprenditori quando vanno in banca. Vedo decine di messaggi sul tema delle pensioni di carattere diverso, che dicono: ma allora lei è più interessato alla tenuta dei conti pubblici che ai diritti dei cittadini. Altri dicono l'opposto, la Consulta è sclerotica e interviene su questioni di bilancio, trovo discutibile il suo intervento. Ragazzi, insomma, il punto è molto semplice: la Consulta fa il suo lavoro, l'ha fatto con tempi troppo lunghi. Poi uno mi dice: ma ci sono le procedure. Ho capito, ma non si possono aspettare 3 anni per sapere che devi pagare, che una legge che tocca i conti dello Stato va cancellata, perché è chiaro che poi una legge fatta dal governo Monti, poi passa al governo Letta, c'è il governo Renzi e adesso salta tutto il banco della manovra, delle possibili manovre. Quindi i tempi. Non abbiamo mai capito, se possiamo dirlo, come mai l'allora Presidente del Consiglio Monti, ministro Fornero, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non abbiano... Ho capito che non esiste il parere preventivo della Consulta, ma qualcuno poteva anche, no, informarsi. Attenzione, non c'è il rischio che la Consulta bocci la legge? No, invece il cerino si è passato di mano in mano. Dopodiché decidiamo anche se ha un senso in questo Paese stabilire che le pensioni più alte debbano contribuire con uno sforzo, vista la situazione del paese complessivo, visto che metà delle pensioni valgono meno di 1000 euro lordi, oppure no. Cioè, chiediamoci se chi ha una pensione legittima di 5.000, 10.000 euro debba contribuire in qualche modo o no. Allora uno mi può dire: va bene, adegua all'inflazione, però chiedi un contributo straordinario alle pensioni sopra un certo tetto, partendo dai vitalizi. Cioè, da qualche parte va preso. Oppure diciamo che no, ha ragione la Consulta su tutto, e quindi la pensione di chi ha 8.000 euro di pensione, magari non avendo versato i contributi per 8.000 euro, che è un altro punto, va mantenuta e adeguata all'inflazione. Ok, allora a questo punto non lamentiamoci se poi non ci sono i soldi per altre manovre. Comunque, gli errori più classici, perché ne parliamo? Perché se da un lato il commissario della Consob Vegas, il direttore generale, il presidente della Consob Vegas dice che sono troppo stringenti le regole europee, è vero, e si spera che le banche abbiano la forza anche di imporsi un po' di più con l'autorità bancaria europea, che è guidata da un italiano ma che non sembra affatto italiano, si chiama Guerrieri, adesso vado a riprendere il nome perché ve lo dico, però insomma si comporta come se non fosse italiano e non conoscesse il modello di impresa italiano. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Valerio Malvezzi, che è esperto di finanza aziendale, consulente e diciamo sta creando con dei corsi per i piccoli imprenditori. I corsi si chiamano Win the Bank, batti la banca, vinci la banca. Buonasera Malvezzi innanzitutto. Buonasera. Sta spiegando ai piccoli imprenditori, ripeto, artigiani, manifatturieri, dei servizi, gli errori più comuni da non commettere. Allora, siccome tutti vogliamo non essere giudicati quando andiamo in banca solo come dei numeri, dei ratio patrimoniali, delle cose che hanno a che fare con Basilea 2, non con la vita di tutti i giorni, chiediamo un po' di soggettività, cioè che il direttore di filiale, il responsabile credito, ci valuti per quello che siamo, la serietà, il tipo di impresa, il contesto in cui operiamo, e lasci stare un attimo Basilea. Questo vuol dire chiedere una valutazione soggettiva, oltre che numerica e patrimoniale, di ratios patrimoniali. Allora, in questa logica uno può commettere anche degli errori come imprenditore. Partiamo dagli errori, diciamo così, comportamentali e relazionali. Voi avete fatto un'indagine con tantissimi funzionari, esponenti del mondo bancario, chiedendogli per quali motivi hanno dato credito a quell'imprenditore, e da lì avete ricavato, diciamo, gli errori da non fare, quindi un metodo, diciamo, induttivo rovesciato. Allora, gli errori più tipici a livello comportamentale, diciamo, e relazionale. Ma guardi, prima di tutto dobbiamo dire che se si vuole fare un affare, l'affare va fatto in due. E quindi il primo punto è mettere la banca nelle condizioni di fare un affare, perché altrimenti non si chiude. Quindi la prima considerazione è, osservando quello che fanno i piccoli imprenditori, che poi rappresentano la parte maggiore del mercato italiano, arrivano in banca solitamente all'ultimo minuto. C'è un detto, come dire, il detto della nonna, no? Cioè le banche danno i soldi soltanto a chi non ne ha bisogno. Questo si dice nella vulgata popolare. Va bene, ma se è così, perché vai sempre in banca quando più ne hai bisogno? Questa è la prima questione. Quindi tutto, cioè, vai in banca quando non ne hai bisogno? Sì. No, paradossalmente, sì. Al di là della battuta, lei dice l'imprenditore arriva in banca quando è proprio nel momento in cui deve recuperare questa liquidità, sia che sia per i pagamenti, sia che sia per i fornitori, per il cash flow, per la liquidità interna, perché ha una scadenza in corso o addirittura perché è pronto a fare un progetto, va all'ultimo minuto. E questo cosa comporta? E questo comporta che evidentemente sei già in posizione di perdente con la banca, perché la banca si trova a capire che tu sei governato da un problema e non sei un'opportunità. Questo è il primo aspetto. Non essere, sembra uno slogan, però poi nei rapporti personali, pensate ai colloqui anche di lavoro, le scelte si fanno sui curricula, ma anche sull'impressione che dai. È così, non ti girarci attorno. Allora, quindi la prima è non dare l'impressione di essere governato dai problemi, certo, ma di rappresentare un'opportunità. Cioè non andare, certo, in banca e dire, guarda, io devo pagare i fornitori, mi manca la liquidità questo mese, ho bisogno. Perché quello dice, ecco qua, io e mi scambi per un bancomat. Sì. Ci stanno scrivendo alcuni direttori di filiale, ci portano dei bilanci o unici non aggiornati su carta di formaggio con voci fantasiose che non sanno spiegare e ci accusano di non erogare credito, movimentazione del conto nulla, movimentazione di bisogno di liquidità per spese correnti e investimenti, su che basi erogheresti in queste condizioni? Insomma, ci sono pochi veramente meritevoli finché si affidano a commercialisti che li aiutano ad evadere e non dichiarare, a quel punto i rating che si genera impedisce l'erogazione. Come spiego ai correntisti che presto soldi sulla fiducia? Insomma, c'è un po' di tutto, però la critica più forte mi sembra che spesso ci sia un po' di improvvisazione. Allora, l'improvvisazione vuol dire non andare all'ultimo minuto, esatto, con l'acqua alla gola, è rappresentato un problema per il funzionario di banca. Il, esatto, secondo errore, perché non possiamo raccontare tutti, di, no, carattere relazionale e comportamentale. Ma guardi, secondo me riguarda l'aspetto del... No, secondo lei, secondo quello che le hanno detto i direttori. Sì, poi... è una sintesi naturalmente. Mm-hmm. Durante il colloquio con la banca ci sono delle domande classiche che vengono fatte all'imprenditore, alle quali molto spesso, mentre nella grande impresa c'è da parte dell'imprenditore paradossalmente la conoscenza precisa di alcuni elementi, per esempio, ma lei quanti crediti ha nei confronti dei propri clienti ancora aperti e quanti ne ritiene esigibili e quanti inesigibili, oppure ma lei quanto deve pagare di debiti IVA, oppure ancora, soprattutto, ma lei quanti debiti ha aperti ha con le altre banche? Questa è una domanda che fa una nuova banca che vuole entrare. Certo. Ora, vi ho fatto tre esempi di tre cose stupide, ma se a queste tre domande tu, imprenditore, non sai rispondere al volo e devi dire Maria, se Maria è la responsabile dell'amministrazione, mi dica queste cose, secondo me ti stai già mettendo in condizione di grave difficoltà, perché vuol dire che non conosci i numeri fondamentali del tuo bilancio. Non voglio parlare di rati risconti o di questioni tecniche, ma parlo dei numeri grossi, perché la domanda che si fa a un direttore di filiale o un direttore crediti è: ma se questo signore si dimentica oggi quanti debiti deve nei confronti della banca Y, io che sono la banca Z, perché dovrei entrare? Oppure se non ha ben presente la situazione, per esempio, che di altri debiti che ha in essere o partite che potrebbe avere o poste che potrebbe avere, dici, beh, a questo punto mi sta. E torniamo un po' al tema, io devo sempre banalizzare un po' per spiegare a tutti il tema dell'approccio, come se la banca fosse un bancomat. Cioè tu vieni lì e stai chiedendo dei soldi e ti sei poco preoccupato, da un lato, di preparare il rapporto, perché io potrei aggiungere magari uno, il direttore di filiale o il responsabile crediti lo incontra anche prima, anche senza motivo, voglio fare un colloquio, giusto per avere un rapporto umano, perché ti presenti una volta ogni due anni, una volta all'anno, quando sei con l'acqua alla gola, intanto l'altro ha il coltello alla parte del manico, in secondo luogo si sente trattato come un banco, ma se poi non hai nemmeno ben presente la situazione debitoria, devi dire aspetti un attimo, chiedo all'amministrazione, chiedo al mio commercialista, dai l'impressione di uno che è andato lì per chiedere i soldi e basta, e già parti male, perché onestamente la banca non è un bancomat, anche se c'è lo sportello bancomat. Resti con noi, ho il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora, si chiama Andrea Ria, il capo dell'EBA italiano, che però insomma conosce poco o dimentica molto il sistema di imprese italiano, ma in questo caso non vogliamo una volta tanto dare solo la colpa alle banche o alle regole europee, qualche responsabilità bella ce l'hanno anche i piccoli. Non è un'accusa ai piccoli imprenditori, è che delle volte, anzi spesso, le grandi strutture hanno dentro le professionalità, per cui è facile, è più facile, il colloquio c'è, la banca chiaramente prestandoti più soldi ha anche più interesse nel mantenere un rapporto, insomma diciamo la verità come stanno le cose. Allora, al di là degli errori comportamentali, quindi siate seri, incontratelo un po' prima, non arrivate all'ultimo minuto, arrivate preparati, perché l'imprenditore dice ma la mia azienda si vende da sola, no, te la vendono da sola casomai. Ma il progetto del secolo. Ecco, andiamo al progetto industriale, perché uno va in banca per due motivi, o per un progetto industriale o per liquidità proprio di quelle immediate. Gli errori classici sul progetto industriale. Ma come dicevo, prima sentivo una cosa molto interessante nei messaggi che lei ha letto, cioè che testimoniano esattamente quello che io dicevo poco fa ed è l'opinione di chi sta dall'altra parte, cioè dell'opinione della banca. Mi fai capire l'andamentale con me, cioè parlando in termini semplici, mi fai vedere i flussi? Allora, questo è un errore tipico. Io conosco sempre imprenditori che vogliono parlare di fare il grande impianto, devo andare in Cina, devo fare un'operazione, chiamiamola certo, così, importante, e partono da quello che io chiamo il progetto del secolo. Se tu vai in una nuova banca e pensi di fare finanziare subito un impianto, un capannone, una cosa nuova, e non parti dal circolante, questo è un errore tipico. Cioè, mi faccia capire, lei dice, ma anche se vado nella mia banca tradizionale, io ho la necessità di un piano industriale, quindi sono una persona seria, nel senso che non ho una visione a breve, non devo pagare il fornitore il prossimo mese, ma ho deciso di aumentare la mia attività, di andare in Cina, di andare in Turchia, in Brasile, dove cavolo devo andare. Vado lì e ritengo, e ho un bel piano di espansione, ritengo che il mercato in quel paese sia ancora sottodimensionato e quindi vado in banca e dico, questo è il mio piano industriale. Qual è l'errore? Non ho capito. È molto semplice, che il piano industriale si può fare in mille modi, ma deve contenere due cose fondamentali che interessano alla banca, perché io devo fare un documento che piaccia a quello con cui devo chiudere un affare. Cosa gli devo dire? Due cose sostanzialmente. Uno, che cosa ne faccio dei suoi soldi? E due, come gli garantisco che glieli rendo? Ma attenzione, quando parlo di garanzia di solidità del piano, non parlo di garanzia patrimoniale o di altre cose. Cioè come ritorno i flussi di cassa, certo, attraverso i flussi di cassa come ritorno al prezzo, non solo quello che metto a garanzia, diciamo, di patrimonio. Quello secondo me è un aspetto di minore importanza rispetto alla logica del reddito. E quando le dice il piano del secolo, cosa vuol dire? Vuol dire che tutti che cosa fanno? Fanno il giro delle sette chiese. Tradotto, hanno scoperto ieri mattina di dover andare in Cina o di dover fare un impianto, magari si trovano nelle condizioni di dover fare un salto dal punto di vista della finanza, perché in percentuale rispetto al fatturato o al volume del capitale investito è importante, e allora a questo punto pensano di andare a trovare finanza nuova da nuove banche, arrivando all'ultimo minuto con un piano. E questo è un altro errore tipico che magari non hanno fatto nemmeno loro. A me è capitato tante volte di sentire nel colloquio, la domanda è, sì, ma questo piano per la Cina, piuttosto che questa espansione che dovete fare su questo nuovo prodotto, ci sono delle incongruenze del piano? E la risposta qualche volta del piccolo imprenditore è, ah no, ma questo numero non l'ho messo io, l'ha messo il commercialista o il consulente. Oggi l'ha puntata contro il commercialista. No, ma per carità, no, vabbè, però attenzione, allora qui sono due aspetti, da un lato il piano devi viverlo, dall'altro non pensare che siccome tu hai scoperto, è un bellissimo piano, questo deve per forza passare come bellissimo piano, e sul più che le garanzie patrimoniali, questo mi sembra molto importante, fai capire alla banca che deve erogare il credito le garanzie sui flussi di cassa che questo piano porterà. Resti con noi perché mi piace molto questa specie di viaggio empatico nei confronti del direttore. Questo è un modo per cercare di entrare nella testa dei direttori delle banche, non per cazziare i piccoli imprenditori, però più entri nella loro testa più li convinci, no? Se no, diciamo che uno va lì e poi magari rimbalza. GR24. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi di responsabili dei crediti bancari, di direttori di banca, ma anche molti di piccoli imprenditori, alcuni arrabbiati. Ma guardate che, abbiate pazienza, non stiamo, almeno personalmente non c'è la voglia di spiegare nulla a nessuno, ma ci mancherebbe, però prendetela come un'opportunità. Poi uno dice, tanto alcuni scrivono, ma guardate che io non ho mai non esiste nessuno che abbia ricevuto credito sulla base della sostenibilità del progetto e non sulla garanzia patrimoniale. Può essere, però perché non ascoltare i consigli che vengono dati da chi ha chiesto attraverso varie decine e decine di interviste a chi ha erogato il credito su quali sono gli elementi al di là dei parametri di Basilea, degli IAS. Poi insomma non può dire vabbè, intanto questo non servirà e parte già sfiduciato. Comunque su questo vorrei continuare con Valerio Malvezzi, che appunto tiene questi corsi agli imprenditori su come battere la banca, e già il termine mi sembra appropriato. Intanto se vuole darmi anche un commento sul fatto che quello che scrive un ascoltatore chiede se qualcuno ha mai ricevuto credito sulla base della sostenibilità del progetto e non sulla garanzia patrimoniale. Come dire, tanto alla fine la banca quello che vuole è cosa mette impegno, io traduco in maniera brutale. Certo, ma non è vero. Non è vero, primo perché è scritto nelle regole di Basilea, cioè bisogna finanziare sulla base dei futuri flussi di cassa. Secondo perché è così che funzionano tutte le banche. Le banche sono piene oggi di garanzie, e lo sanno tutti, di immobili, e per loro è un grande problema. Cioè, mentre tutti, compresi anche per gli imprenditori. Ma certo. Ma mentre tutti pensano che il problema fondamentale sia fornire alla banca una garanzia, io dico che questa è la, diciamo, variabile numero tre. La numero uno è il reddito, che poi, se vogliamo dirlo in italiano e non all'inglese, sono i flussi di cassa prima dei finanziamenti. Quindi vai in banca, presenta un tuo progetto, fatti capire, perché altrimenti non generi fiducia. Questo vuol dire avere un minimo di capacità di rappresentare i flussi di cassa futuri. Dico minimo perché non serve un rendiconto finanziario evoluto, ma servono quelle quattro nozioni fondamentali. Secondo, il patrimonio, è vero. Ma qui, per esempio, quanti considerano le banche da una parte come banche di impiego e dall'altra parte come banche di raccolta, e magari tengono i titoli in una banca e poi vanno a farsi finanziare dall'altra? Questo è un elemento di realismo contrattuale. Ora, se tu hai un'impresa patrimonializzata, benissimo, non esiste il problema. Ma se tu vuoi fare un impianto da 1 milione di euro e hai 10.000 euro di capitale sociale, credo che queste siano considerazioni di realismo. Allora, eravamo arrivati dopo gli errori comportamentali e relazionali. Incontrare il responsabile solo quando si è con l'acqua alla gola, senza aver mai fatto una telefonata, un incontro, un caffè, dico io banalmente prima, non che questo... È chiaro che non è dirimente, ma tutto serve, mettiamola così. E l'errore di pensare che il piano industriale sia, diciamo, da solo giustifichi l'investimento, mentre uno deve spiegare anche il flusso di cassa. L'errore nel non sapere la propria posizione finanziaria nel dettaglio e soprattutto non riferendosi, un attimo chiedo a X o Y, l'errore nel dire questa cosa del piano industriale me l'ha fatto il business plan, me l'ha fatto il commercialista, non è che ce l'abbiamo con i commercialisti, me l'ha fatto il commercialista, dà l'impressione che tu non stia padroneggiando, diciamo, la materia, creda solo nell'intuito che è alla base assieme al coraggio di qualunque imprenditore, ma poi non basta quando vai in banca. L'ultimo aspetto che ho per lei è riguarda invece quando tu vai in banca non per il piano industriale, ma, e che è del tutto legittimo, per la liquidità anche a breve o medio-breve termine. Che errori vengono compiuti lì? Ma guardi, primo, dicevo, questo tema della liquidità vale per il breve termine, ma è anche legato alle prospettive future, perché come dicevo prima, l'elemento fondamentale è quello di generare fiducia, e la fiducia tu la generi semplicemente se parli del linguaggio che interessa la banca, cioè la banca che cosa ti dà? Denaro. Tu di che cosa devi parlare? Di denaro. Mica tutti lo fanno a livello di piccola e media impresa. Quindi, prima di tutto, liquidità vuol dire che io ti chiedo liquidità, fammi vedere come gira. Se noi ascoltiamo gli sms che hanno dato i direttori di banca o di filiale poco fa, cosa dicevano? Che mi porti il bilancio scritto su un pezzo di carta da formaggio e hanno scritto e non mi fai vedere i numeri. Cosa vuol dire i numeri? Il rapporto andamentale. Cioè vuol dire avere gestione della liquidità. E questa è una prima risposta. La seconda risposta è l'assorbimento della liquidità, cioè quanti vanno a chiedere un finanziamento, magari di medio o di lungo termine, e poi non chiedono anche a quella banca un aumento dei fidi cosiddetti a breve. Termine non preciso, ma lasciamolo andare. Perché questo? Per due ragioni. Primo, che non fai vedere che hai capito che se ti espandono i fatturati, ti espandono i crediti, quindi a parità di condizioni hai bisogno di più cassa, cioè di più liquidità, e questo lo fanno pochissimi. E secondo, che non consenti a quella banca di misurarti quotidianamente sul rapporto andamentale, cioè sulla gestione dei flussi, perché se tu hai una rata semestrale ti vedrà ogni sei mesi. Questi sono errori banali che secondo me nessuno si deve offendere per queste considerazioni, deve semplicemente valutare se non convenga farne tesoro. E la... Andiamo all'ultimo errore, sempre quando si chiede liquidità. Ho capito benissimo quello che lei dice e secondo me è oro colato da questo punto di vista, perché si entra quasi nell'aspetto psicologico, cioè se tu dai l'impressione che tanto la prossima volta che ci rivedremo è fra sei mesi, quando scade la rata, torniamo sempre, il tema, non dico all'improvvisazione, ma al rapporto mordi fuggi, al rapporto banca usata come bancomat. Se tu invece chiedi anche una costante monitoraggio di quelli che sono i flussi di cassa messi, gli dai un'idea di un approccio complessivo che vuole un rapporto duraturo, ma soprattutto costante, non sporadico, non mordi e fuggi. L'ultimo errore. Il tema fondamentale, secondo me, è l'aspetto, e per quello che raccolgo dal sistema bancario, è l'aspetto della gestione della ordinarietà. Cioè, tutti, bene o male, sono capaci a fare un leasing, un finanziamento, un mutuo a 10 anni. Poi qui c'è la questione se poi la banca lo dà, ma è un'altra questione. Il problema è quante piccole imprese gestiscono l'anticipo fatture, le RIBA a fine mese, come diceva lei, come un bancomat. Questo è il problema, cioè l'autoliquidante non è cassa, non è conto corrente, se non altro perché c'è una discrezionalità da parte della banca nel concederlo. Arrivare all'ultimo giorno, magari anticipando delle fatture attive per coprire delle RIBA passive o cose di questo genere, significa fare vedere che stai subendo il governo del denaro e non lo stai gestendo. E questo, secondo me, è un errore molto grave. Che ci riporta al primo degli errori. Quando tu vai all'ultimo minuto, stai subendo la gestione del denaro e quindi ti proponi e ti presenti. Devo dire che in parte può valere anche nel rapporto col privato cittadino, ma cambia tutto però lì. Comunque, che stai subendo il problema della liquidità e quindi vai perché qualcuno ti risolva un problema, non stai offrendo un'opportunità alla banca di avere un impiego in cui deve vedere anche un vantaggio. Le banche non fanno beneficenza, questo l'abbiamo capito tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a lei, perché insomma una volta tanto abbiamo appreso il problema del rapporto banca-piccola impresa, a cui teniamo tantissimo, perché ripeto, i piccoli imprenditori sono il 96% in questo paese, vale, voglio dire, anche artigiani, piccoli fornitori della manifattura, dei servizi. Grazie a Valerio Malvezzi, appunto responsabile e dei corsi Wind Bank. Adesso dalle banche teoriche alle banche in borsa, visto che oggi abbiamo da un lato il Monte dei Paschi che perde il 5,80, dall'altro la Pop Milano che guadagna il 2,20%, con Piazza Affari che ha chiuso con un meno 0,90, Parigi meno 1, Francoforte meno 1,70, Londra meno 1,40%, l'America sta perdendo lo 0,36%. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Prima il traffico. Focus Economia. :18:17, ultima parte di Focus Economia. Scrive un ascoltatore, ma immagino che sia un bancario, ma quale piano industriale? Di solito è il pianto industriale, però adesso Ragazzi, non ha senso la contrapposizione tra i diritti e le ragioni del mondo bancario e i diritti e le ragioni del mondo imprenditoriale. Cerchiamo di trovare un'unione su questo, ma non lo dico per un finto buonismo, perché sennò non si va da nessuna parte. Allora, il bene non sta tutto da una parte, questo programma ha tutto tranne che un approccio manicheo. E qui ci sono anche degli errori commessi dai piccoli imprenditori, oltre che una marea di errori commessi dal mondo bancario che raccontiamo dal 2008 in poi. Allora, il peggior titolo oggi è Autogrill, -6,70%, però vorrei partire dal Monte dei Paschi, -5,80%, e unirlo alla Popolare di Milano, che invece guadagna il 2,20%. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera, sì, battuta d'arresto per MPS dopo la buona performance dei giorni scorsi. Ricordiamo che si arriverà nei prossimi giorni il semaforo verde da parte della Banca Centrale Europea, partirà l'aumento di capitale da 3 miliardi, quindi gli investitori hanno preferito prendere profitto. Poi a mente fredda gli analisti hanno puntato l'indice comunque sul fatto che nel primo trimestre MPS è tornata sì inutile, ma d'altra parte hanno puntato l'indice sui crediti dubbi che rimangono ancora da monitorare. Detto questo, invece, come hai detto tu, BPM è andata bene, +2,2%, a fine seduta la banca ha dato i conti del primo trimestre con un utile in miglioramento, e quindi ovviamente sull'attesa di questi conti il titolo si era già mosso bene. Poi rimane anche l'appeal speculativo, proprio ieri Saviotti, peraltro anche il Banco Popolare ha comunicato i conti a borsa chiusa ed è tornato inutile. Proprio ieri Saviotti, l'amministratore delegato del Banco Popolare, ha detto di continuare a carezzare l'idea di un matrimonio tra il Banco Popolare e la BPM. Allora, e questo per quello che riguarda appunto il mondo bancario, che oggi ha visto, appunto, come tu ricordavi, anche Unicredit l'utile a 512 in calo, ma in linea con le attese. Il titolo Unicredit, adesso lo becco, ha voglia quando lo becco, in borsa oggi, eccolo qua, -3,40% dopo il Monte dei Paschi, -5,80% il peggior titolo. Autogrill invece, -6,70%. Sì, in questo caso è stato proprio l'effetto dei conti del primo trimestre, sì, che si sono chiusi con un rosso. Ma di oltre... mi sembra di aver visto le prospettive soprattutto. Sì, esatto, la perdita è stata di oltre 40 milioni, ma soprattutto la società è indicato le prospettive per fine anno che sono risultate inferiori alle attese degli analisti. Ad esempio i ricavi sono previsti tra i 4,3 e i 4,4 miliardi a fine anno, mentre gli analisti si aspettavano almeno 4,4 miliardi, se non di più, e quindi sulla scorta proprio delle previsioni il titolo ha imboccato la strada del ribasso e alla fine ha fatto peggio di tutti. Certo. Allora, Exor, la controllante di Fiat, oggi ha rilanciato su Partnery. Il prezzo è stato alzato dopo che era stata respinta la prima offerta a $137,5 per azione, 6,8 miliardi. Il titolo Exor perde l'1,86%. Per quello che riguarda invece altri elementi di borsa, vorrei andare su Telecom Italia, ma qui non c'entra la vicenda Enel banda larga, +3,27%. Anzi, la vicenda Enel banda larga trascinava in basso questa mattina, sì, le azioni, sì, che poi repentinamente a metà giornata hanno imboccato la strada del rialzo, mettendo a segno una delle migliori performance. Questo perché è arrivata la notizia dall'America che Verizon ha comprato per 4,4 miliardi di euro a All, quindi mette appunto magari apre le danze per un riassetto anche nel settore delle TLC a livello mondiale. Ed STMicroelectronics invece anche qui non è bilancio ma è l'Investor Day, quindi l'appuntamento con gli investitori. L'amministratore delegato Bozzotti ha prospettato un miglioramento dei ricavi e degli utili, no, nella seconda parte dell'anno. Esatto, STMicroelectronics e i vertici oggi hanno incontrato a Londra la comunità finanziaria e Bozzotti ha indicato di prevedere un miglioramento dei ricavi nella seconda parte dell'anno e anche un miglioramento dei margini. In più la sezione digitale, che è quella che soffre di più, dovrebbe essere aperta a opzioni, così hanno detto i manager dell'azienda, ma subito si è iniziato a pensare a una joint venture oppure anche a una vendita. Ancora Yux, qui sono giornate trimestrali, quindi spesso, per fortuna, perché ogni tanto il mercato si muove solo su così, presi di beneficio, pretesti e scuse, Jux più 1%. Jux è andata bene sin dalle prime battute di questa mattina. Ieri a borsa chiusa ha comunicato la trimestrale, che si è chiusa con un utile salito del 30% a 1,2 milioni. La borsa ha apprezzato soprattutto perché i conti sono alla fine risultati al di sopra delle attese. Allora, il calo di Autogrill è pesante, lo dico perché è in assoluto il peggior titolo di borsa, è meno 6,70% che ha fatto Autogrill. Mentre il secondo peggior titolo è Elettra Investimenti meno 6, poi Monte dei Paschi meno 5,80, Microspor meno 5,60, Vieni in Industria meno 4,90, il miglior titolo è Mondo TV più 7%, Mutui Online più 4,34, Clabo più 4%, e poi il gruppo Rizzoli Corriere della Sera più 3,40%. Grazie Leonore Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Ultimo tema, che è un aggiornamento in realtà, poi torneremo sul mondo dell'acciaio nei prossimi giorni, già da domani se non ricordo male, e parleremo domani dei dirigenti, non ce la faccio far tutto, ma visto l'interesse degli ascoltatori era giusto anche approfondire il tema del rapporto banca cliente guardando dalla parte una volta tanto la banca. L'Ilva, buone notizie per quello che riguarda la liquidità, e quindi il decreto di trasferimento delle somme, 1 miliardo e 200 milioni sequestrati ai Riva. Allora, un po' di cassa l'Ilva sembra averla, perché a inizio marzo Fintecna ha versato 156 milioni di euro in favore di Ilva per la liquidazione definitiva di un contenzioso. Poi ieri la Corte dei Conti ha registrato il decreto con cui il Ministero dell'Economia a fine aprile ha accordato la garanzia dello Stato al prestito di 400 milioni di euro per l'Ilva di Taranto, dopo che il sindaco di Bari, il segretario del PD, scusatemi, della Puglia, il candidato governatore Emiliano, ha detto saremo pronti anche a chiudere la fabbrica se non rispetta le norme ambientali, e mentre si era saputo a fine aprile che l'Ilva di Taranto aveva messo in vendita anche le macchine e utensili che non utilizza più nel ciclo produttivo. E poi dicevo il miliardo e due sequestrato e arriva, che sarà destinato alla sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ilva e potranno essere intestate, dovranno essere intestate al Fondo Unico di Giustizia. Domenico Palmiotti da Taranto per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Con la chiarezza che ti è propria, questo che cosa comporta per i flussi, visto che abbiamo parlato di flussi di cassa tutta la puntata, per i flussi di cassa dell'Ilva? Beh, diciamo che l'azienda, la situazione dell'azienda comincia pian piano a stabilizzarsi, la crisi non è superata, la crisi non è del tutto sciolta, però dei segnali positivi, dei segnali chiari cominciano a vedersi. Soprattutto è molto importante il fatto che il GIP abbia dato l'ok allo sblocco degli altri 200 milioni, perché come ricordavi tu, sì, i 156 milioni di Fintecna sono importanti, importante anche il prestito da 400 milioni, però quello che fa la differenza, quello che consentirà poi all'azienda di mettere mani ai cantieri dell'AIA, che sono lavori imponenti per importo. Allora, per spieghiamola, l'AIA è l'autorizzazione di impatto integrata ambientale, che è fondamentale, perché sennò ribloccano gli impianti. Voglio dire, quello che consentirà di fare questi lavori sono i soldi che verranno dal sequestro dei Riva, perché l'AIA costa 1,8 miliardi, qui siamo intorno al 1,2 miliardi, e poi ci sono anche altre risorse sequestrate che potranno anche essere svincolate, e quindi diciamo che i soldi sequestrati sono la provvista finanziaria per realizzare l'AIA. In parte l'azienda ha già fatto delle cose, entro luglio dovrà aver adempiuto all'80% delle prescrizioni, l'Ilva dice di poter raggiungere l'80% delle prescrizioni, ma ci sono da fare ancora cose molto importanti, come il rifacimento dell'Alto Forno 5, che è stato fermato a marzo, come la copertura dei parchi minerali, che è un problema importante. Certo. Sulla copertura dei parchi minerali ci sono soltanto le autorizzazioni, però i cantieri sono tutti da allestire. Tutte queste opere sono andate con un passo lento sinora perché non c'erano i soldi. Adesso che i soldi stanno arrivando, stanno pian piano affluendo alle aziende, l'auspicio, l'aspettativa della città è che le cose si facciano e che i lavori partano sul serio. Sì, la parte mineraria è quella che, se ben ricordo, che deve proteggere anche dall'effetto venda, se lo dico male, certo, correggimi certo, se sbaglio certo, Domenico, i parchi però minerali, l'effetto vento che poi porta certo, queste polveri in tutta la città. Le spese di minerali, fossili, carboni, coprendo i parchi minerali si evita coprendo polverie, adesso lo dico, sì, con, dico una bestialità, come se uno coprisse con un telone, diciamo. No, cioè evitare che il vento porti questi residui nell'aria. Certo, certo, evita l'imbrattamento delle case del vicino Rione Tamburi, evita la dispersione delle polveri, insomma hanno fenomeni, hanno aspetti contenitivi delle emissioni. Ed è un aspetto molto importante perché sia le emissioni inquinanti, sì, degli impianti che quelle delle polveri sono i due aspetti cruciali dell'impatto ambientale. E che hanno portato poi alla decisione della magistratura del blocco degli altoforni. Grazie anche a Domenico Palmiotti ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Torniamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni un augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.